Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, nove minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria. Partiremo in apertura dalla classifica pubblicata oggi dal Sole 24 Ore, che riguarda, è una classifica dinamica, lo dico subito, cioè va a vedere, andando a parità di punti di partenza, quindi sulla base di come erano messe le province italiane prima dello scoppio della crisi nel 2007, quelle che hanno avuto il peggioramento più forte sulla base di 10 indicatori che vanno dalla disoccupazione, al potere d'acquisto, al prezzo dell'immobile, delle abitazioni e quant'altro, alla spesa per i farmaci e i rifiuti. Questo per dire quali sono le province che hanno più risentito dalla crisi, che non vuol dire quali siano le province messe peggio dal punto di vista degli indicatori economici, perché alcune partivano già da livelli molto alti e hanno avuto cali forti, altre partivano da livelli bassi e hanno avuto cali più contenuti, poi ci sono quelle che partivano da livelli già bassi come situazione economica complessiva e hanno avuto cali forti, e quelle che partivano da livelli buoni di indicatori economici e hanno avuto cali più contenuti. Ma è una fotografia dinamica, cioè là dove e si va a vedere dove la crisi ha colpito di più, ripeto, sulla base di indicatori che non sono quelli classici, solo statistici, ma vanno anche appunto dalla spesa di farmaci all'utilizzo ai rifiuti generati. E sostanzialmente si scopre che vi sono alcune province, soprattutto del centro-sud, ma con più di un'eccezione nel centro-nord, dove la crisi ha colpito di più, e allo stesso tempo anche province del sud dove la crisi ha colpito meno. Ripeto, si partiva da livelli molto diversi, quindi è semplicemente una fotografia di come si è sviluppata la situazione economica complessiva da quando è scoppiata la crisi. Gli indicatori vanno appunto dai prestiti personali ai depositi in banca, al numero dei laureati, il tasso di disoccupazione, l'acquisto di automobili, i prezzi degli immobili, i beni durevoli, gli scarti, i rifiuti prodotti e il consumo di farmaci. Poi parleremo, come sempre, anche della borsa, che oggi è positiva a Milano, un po' meno rispetto al resto d'Europa, più 0,50% Milano, più 0,80% Parigi, più 1,30% Francoforte e più 1% Londra. E tra i titoli segnalo la flessione del Banco Popolare, meno 3%, del Monte dei Paschi, meno 2,20%, in una giornata in cui altre banche invece vanno bene. La Popolare Emilia Romagna guadagna il 2,80%, Unicredit pure, Intesa San Paolo più 2%, Pop Milano più 2%, Mediobanca più 0,80%. Bene oggi anche G-Tech più 2,31% e Fiat più 1,70%. Fronte opposto invece per Snam, Rete Gas meno 2,40%, Saipem meno 2,1%, Ubibanca meno 1,60% e Mediolanum meno 1,30% come A2A. Il Finmeccanica guadagna lo 0,50%. Parleremo di Finmeccanica perché oggi è intervenuto per la prima volta in maniera così dettagliata il neo numero 1, e mi riferisco chiaramente a Mauro Moretti, ex amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato. Perché è intervenuto? Perché si tiene il Farnborough Air Show, che è il più importante appuntamento per l'aerospazio difesa, per tutto ciò che, diciamo, concerne l'aviazione civile e l'aviazione militare al mondo. Un anno si tiene in Inghilterra, appunto a Farnborough, l'anno successivo in provincia di Parigi a Le Bourget, ed è l'occasione per fare il punto della situazione sia civile che militare. Infatti Moretti ha parlato anche degli F-35, ma non solo, ha parlato anche di un Finmeccanica che va rivitalizzata. Ha detto infatti Moretti: Renzi mi ha detto che c'è la più grande industria del paese che ha bisogno di essere riposizionata e rivitalizzata, anche per questo ho accettato di buon grado, e se ho accettato è perché penso di farcela. Questo per quello che riguarda l'industria dell'aerospazio difesa, ma ripeto soprattutto la parte di aviazione civile e militare. In tema di aviazione, la vicenda Alitalia, perché è ripreso in mattinata al Ministero dei Trasporti il confronto tra i sindacati e l'azienda sulla trattativa Alitalia Etihad. Oggi soprattutto il mondo anche bancario, nel pomeriggio è previsto il tavolo con le associazioni che rappresentano il personale viaggiante, e domani arriverà in Italia l'amministratore delegato di Etihad, quindi la compagnia di Abu Dhabi che vuole acquistare il 49% dell'Italia a certe condizioni, e tra l'altro arriverà per inaugurare il volo mercoledì Roma-Abu Dhabi, il nuovo volo di Etihad. E faremo il punto anche su questo, perché l'impegno di Etihad è importante, più volte lo abbiamo citato. Si tratta di 560 milioni di euro, però ripeto, a certe condizioni, una su tutte, quella più delicata, riguarda gli esuberi. I 2251 esuberi dovrebbero ridursi a 1650, ma ripeto, ne parleremo più avanti. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook e le altre notizie in breve. Partiamo subito, come sempre facciamo, dagli elementi internazionali dell'economia. Allora, la notizia è di quelle destinate poi a creare anche un seguito. Citigroup ha patteggiato per 7 miliardi di dollari con le autorità americane per risolvere una disputa legata ai mutui. Citigroup pagherà infatti 7 miliardi di dollari, di cui 4 miliardi e mezzo di dollari e 2 miliardi e mezzo di dollari in aiuti ai clienti. Ecco perché poi l'utile netto di Citigroup nel secondo trimestre cala del 96% a 181 milioni di dollari. Ancora, per quello che riguarda le banche in Europa, via libera definitivo del Consiglio europeo al meccanismo unico di risoluzione delle banche, e quindi un meccanismo che sarà sempre più al servizio dello sviluppo economico, ha commentato il ministro dell'economia italiano Piercarlo Padoani. Il Fondo Monetario Internazionale intanto ha dato il suo giudizio più che positivo sulle decisioni della Banca Centrale Europea e l'intenzione di usare ulteriori misure non convenzionali. Ha invitato il Fondo Monetario ad andare avanti con l'unione bancaria e ha messo anche in guardia: se l'inflazione resta troppo bassa, la Banca Centrale Europea dovrebbe considerare un programma di larga scala di acquisto di asset, di partecipazioni. E il Fondo Monetario stima nell'area euro quest'anno un'inflazione allo 0,7% e all'1,2% il prossimo anno, e stima che i prezzi resteranno sotto il 2%, e cioè il livello considerato ottimale dalla Banca Centrale Europea, tra il 2 e il 3%, resteranno sotto questo livello almeno fino al 2019. E poi il Fondo Monetario continua, dice: occorre migliorare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, questo è cruciale per gli investimenti e la crescita. E continua il Fondo Monetario Internazionale: le piccole e medie imprese che hanno chiesto finanziamenti stanno incontrando difficoltà a ottenerli, chiaramente, dalle banche, soprattutto in Spagna e in Italia, dove un quinto delle piccole e medie imprese si è vista razionare il credito negli ultimi 6 mesi per richieste respinte o perché veniva offerto a costi proibitivi. Ora, lo dico col massimo rispetto al presidente dell'ABI Patuelli. Io ho letto l'intervista di ieri su Corriere della Sera a Matteo Renzi. Devo dire che il passaggio sulle banche, uno può pensare che lo faccia perché sono diventato renziano, ma è un passaggio a mio avviso sottoscrivibile. Cioè, non ci si può adesso lezioni dalle banche, no, avete liquidità, trovate un meccanismo per prestare con una sana e prudente gestione questi soldi, ma non lo diciamo noi, lo dice adesso anche il Fondo Monetario Internazionale, l'ha già detto Mario Draghi. A me è sembrato invece di sentire il solito racconto che tutto va bene, che le banche fanno il possibile, che ci sono tante sofferenze, ed è vero, sofferenze bancarie, non quelle dei cittadini italiani, ci sono anche quelle, ma diciamo, però dire che tutto, che le banche fanno il possibile, che va tutto bene così, che è il paese che deve muoversi, bah, mi sembra un po' poco, se posso permettermi. E vabbè. Comunque, dice anche il Fondo Monetario Internazionale che lo stampaggio di moneta, il quantitative easing, non è una panacea e non può sostituire le riforme dei vari paesi, e continua: nell'area euro ci sono rischi profondi di stagnazione e deflazione. Tra l'altro, shock esterni negativi o un ulteriore rafforzamento dell'euro potrebbero facilmente spingere l'inflazione in territorio negativo. Come se avesse sentito il Fondo Monetario Internazionale, oggi la produzione industriale europea, fotografata nell'area euro, è tornata a scendere dell'1,1%, in Italia -1,2% dopo un +0,5% di aprile, -1,8% sull'anno precedente. E i principali cali si sono avuti in Portogallo -3,6%, Svezia -3,2%, Danimarca -2%. In Francia intanto il presidente Hollande alle prese con un calo drammatico dei consensi, ha tenuto in diretta TV per la tradizionale intervista per la festa nazionale del 14 luglio, ha detto: attenzione, la ripresa economica è tornata ma resta ancora debole, e ha promesso un taglio delle tasse per il 2014, un taglio delle tasse per diverse centinaia di migliaia di contribuenti. J'ai fait depuis deux ans ce que je pensais être mon devoir et l'intérêt de la France. Da due anni ho fatto quello che pensavo fosse il mio dovere e l'interesse della Francia: porre le basi del risanamento sia sul fronte dei conti pubblici che su quello della competitività. Siamo usciti dalla crisi, quella che è stata chiamata la crisi della zona euro. L'anno scorso, esattamente lo stesso giorno, avevo detto che la ripresa era tornata. La ripresa effettivamente è tornata, ma è troppo fragile, troppo esitante. Al di là delle cifre, non siamo più in recessione, non siamo più in crisi, ma in un periodo di ripresa debole. Il 14 gennaio ho deciso di accelerare, di non aspettare semplicemente che la ripresa si confermasse, che venisse dall'Europa o dal resto del mondo. La Francia non può più aspettare, ed ecco il perché del patto di responsabilità e di solidarietà. Se mi chiedete qual è l'obiettivo da qui a tre anni, vi dico: sostegno alle imprese, riduzione delle tasse per le famiglie, consolidamento dei conti. Questa è l'agenda sul tavolo e niente sarà modificato. Ora si deve lavorare insieme. E poi le parole di Hollande sull'Europa. Dice: con Renzi abbiamo convinto l'Unione Europea sulla necessità di dare priorità alla crescita. Utilizziamo tutte immagini di manovra contenute nel patto di stabilità. Sì, allora insomma, qui continuano a esserci due interpretazioni divergenti: quella di Hollande e di Renzi, che hanno detto abbiamo convinto gli europei, quella dei tedeschi e degli olandesi, che dicono abbiamo bloccato il tentativo franco-italiano di modificare il patto. A me sembra che sia cambiato molto poco, lo dico con massimo rispetto. Poi vedremo se, come abbiamo capito da vari ospiti che abbiamo avuto la settimana scorsa, a settembre portate a casa alcune riforme, Renzi e il governo italiano, sempre nell'arco del loro semestre, potranno andare a Bruxelles con maggiore forza, dire adesso però iniziamo a lavorare sulle flessibilità interne del patto di stabilità. Per ora mi sembra che non si sia mosso molto molto poco, con buona pace di Hollande e anche del nostro presidente del Consiglio Renzi, ma appunto vedremo poi a settembre quale sarà la prossima iniziativa. Alcuni parlano di offensiva del governo italiano. Invece, volete un mio commento sulla Germania che ha vinto i mondiali? Ma adesso, ragazzi, parliamo di economia. Partita molto equilibrata, diciamo così. Però a proposito di calcio, oggi c'è una notizia che riguarda il mondo dell'economia, perché dal Manchester United è arrivata notizia che la società ha raggiunto un accordo decennale con un contratto record con Adidas, un minimo garantito di 750 milioni di sterline, sono 941 milioni di euro per 10 anni a partire dalla stagione 2015-2016. Per la prossima stagione invece la squadra di Manchester continuerà ad indossare il materiale tecnico della Nike, ma insomma dal 2015 l'accordo è con Adidas, 940 milioni di euro per 10 anni. Ci spostiamo all'Italia, il nostro spread è stabile a 168 punti, il rendimento del BTP a 10 anni è al 2,89%, quindi sopra i 150 punti, ma assolutamente in territorio ragionevole, chiamiamolo così. Finché sotto i 200 punti noi non ci lamentiamo. Ancora da Palazzo Chigi arrivano smentite da varie fonti di delle ipotesi circolate sulla stampa di una manovra correttiva ad agosto. Ora devo dire che, come già dicevamo la settimana scorsa, il tema non è se la manovra sarà ad agosto o a ottobre, il tema è se la manovra ci sarà o no, e la nostra preoccupazione è di un PIL che, stando alle ultime previsioni, difficilmente toccherà lo 0,8% o l'1% immaginato dal governo o stimato dal governo. Ora, se il PIL cresce meno del previsto, il rapporto deficit-PIL in automatico aumenta, perché il denominatore è il PIL, e quindi insomma, il timore è su questo, non sul fatto che la manovra verrà fatta ad agosto, ma sul fatto che possa essere fatta. La Banca d'Italia oggi, nel ricordare il nuovo record assoluto per il debito pubblico italiano, che a maggio è aumentato di altri 20 miliardi, ha toccato quota 2.166 miliardi di euro. Dall'inizio dell'anno ha fatto più 4,7%, 96 miliardi in più. Ripeto, però, la cosa importante per l'Europa non è il valore nominale del debito, ma il suo rapporto, ma il rapporto che ha con il PIL. Detto ciò, nei primi 5 mesi dell'anno le entrate tributarie sono cresciute solo lievemente, che praticamente hanno fatto 31 miliardi di entrate di incassi a maggio, ma complessivamente nei primi 5 mesi, a parità di calendario, hanno fatto solo più 1,6%. E poi l'Istat, e questo ci porta anche al tema di apertura, l'Istat che oggi sostanzialmente conferma come in Italia ci siano 10 milioni e 48 mila italiani che vivono in condizioni di povertà relativa, sono il 16,6% della popolazione. Tra questi 6 milioni sono poveri assoluti, cioè non riescono ad acquistare beni e servizi per una vita dignitosa, sono il 10% della popolazione italiana. Tra l'altro noi notiamo vari andamenti, adesso ne parleremo con il Sole 24 Ore, a partire anche da una riduzione dell'utilizzo, del consumo dei farmaci, non sempre negativa, anche sui rifiuti, non sempre sono elementi negativi, però segnalano una difficoltà. Nel frattempo è uscito oggi il rapporto Osmed sulla spesa farmaceutica degli italiani. Ogni italiano nel 2013 ha consumato in media 1,7 dosi di farmaci al giorno. La spesa pubblica e privata è comunque in aumento, è arrivata a 26 miliardi di euro e ha fatto un più 2%. Il 70% dei consumi comunque di farmaci a carico del servizio sanitario nazionale, al primo posto i medicinali per il sistema cardiovascolare, poi seguono quelli per l'apparato gastrointestinale, metabolismo e quelli per sangue e sistema nervoso. Le donne consumano nella fascia tra i 15 e i 64 anni l'8% in più di farmaci degli uomini. E per i farmaci in regime convenzionato, il Lazio è la regione con i maggiori consumi, seguita da Calabria e Sicilia. Ora, sarebbe interessante, però non voglio aprire polemiche, capire come mai in alcune regioni dove sappiamo che la sanità è, diciamo, si sta risolvendo il deficit sanitario in alcuni casi, ma è da sempre un grosso problema, è un grosso buco. Ecco, io vorrei capire perché quando i farmaci sono in regime di convenzione, il Lazio è quello che ha i maggiori consumi, poi la Calabria, la Sicilia, e Bolzano è quello che ha la spesa e il consumo più bassi. Il sospetto viene, Allora, al di là della vicenda Maroni, di cui vi hanno già raccontato i nostri GR24, oggi si sono chiuse le udienze preliminari sull'indagine delle spese pazze dei consiglieri regionali del Piemonte. Ne abbiamo raccontate, c'era di tutto dentro. Ebbene, 4 condanne, 24 rinvii a giudizio. La pena più alta, 3 anni, è stata inflitta a un ex consigliere comunale di Torino coinvolto nell'indagine. Si tratta di Gabriele Moretti. La vicenda Concordia, quindi Carnival, al di là dell'operazione, le operazioni per il rigaleggiamento sono cominciate stamani alle 6, alla Carnival il progetto di rimozione del relitto della Costa Concordia costerà circa 1,5 miliardi di euro, e ha detto il numero uno di Costa, Michael Tam, in conferenza stampa. Il progetto ha contribuito al PIL nazionale con $1 miliardo, che salirà fino a 1 miliardo di euro, quindi dollari, euro, però sì, adesso non è che possiamo dire che meno male che c'è la Concordia, così abbiamo 1 miliardo in più del PIL, però è un dato che va ricordato, così come va ricordato che domani vi sarà sciopero, nel 2 ore di sciopero in tutto il gruppo Ideal Standard contro il rischio di licenziamenti nei prossimi giorni dei 400 lavoratori di Orcenigo. La mobilitazione riguarderà quindi i siti di Orcenigo in provincia di Pordenone, Tirchiana, Biella, Roccasecca, Frosinone, e la piattaforma logistica di Bassano Bresciano, nonché la sede di Milano per un totale di 1.450 lavoratori. Il numero uno della CISL, Raffaele Bonanni, dopo l'esito negativo dell'incontro lo scorso 10 luglio al Ministero dello Sviluppo, ha definito inaccettabile, a dir poco inaccettabile, il comportamento dell'azienda, che rischia non solo di generare pesantissime ripercussioni sul sito di Orcenigo, ma anche di pregiudicare la tenuta dell'intera società. A 7:37 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, un paio di risposte rapidissime. Non capisco quale signore avrei offeso citando nomi e cognomi. La villania di certe sprezzanti espressioni riguardo a belle signore citate con nome e cognome. Ma io non mi ricordo di aver citato signore con nome e cognome. Comunque, dicono che ostento disprezzo, ricordo la volpe e l'uva di La Fontaine, anche se l'uva non dovrebbe essere inaccessibile, la ringrazio, ma mi dica che cosa ho detto, perché non capisco. Invece molti dicono, attenzione, le banche sono private, sono libere di prestare o non prestare soldi a loro piacimento, non possono essere obbligate. Insomma, ma che le banche siano soggetti privati non ci piove. Però, a differenza di un'impresa, visto che parlavamo di Ideal Standard, non possono fallire. Allora, mettiamoci d'accordo. Se dobbiamo trattarle come soggetti privati, dovrebbero poter fallire, come è successo a migliaia di imprese, di piccoli imprenditori, artigiani e commercianti in questi anni, no? Siccome le banche non possono fallire, e mi sembra che da questa crisi emerga un dato di fatto, cioè le abbiamo salvate tutte, in tutto il mondo, da noi poca roba, solo il Monte dei Paschi, però l'abbiamo salvato con i soldi dei contribuenti. 4 miliardi non ce li aveva il Monte dei Paschi, in Gran Bretagna, in Germania, in Francia hanno fatto anche di peggio. Allora, se le banche non possono fallire, è inutile che mi rispondiate sono imprese private, sono libere di fare quello che vogliono. Eh no, perché poi se stai per fallire i soldi te li dà il contribuente. Allora, è ovvio che la, diciamo così, moral suasion, la pressione, l'insistenza sulle banche no, deriva dal fatto che poi la collettività si carica l'eventuale fallimento di una banca, perché sappiamo tutti che i conti correnti sono garantiti, che c'è un impatto sistemico per cui le banche non possono fallire. Perfino Lehman Brothers, quel genio di Bush, figlio, fece quel grandissimo capolavoro e poi si è visto cosa è successo, hanno dovuto salvare tutto praticamente il sistema finanziario, quasi tutto il sistema finanziario americano, 5.000 miliardi di dollari sono usciti lì. Poi li hanno ripagati, anche il Monte dei Paschi sta ripagando, nessuno dice il contrario, ma non mi dite che le banche sono imprese private come le altre, perché è una grandissima balla, ok? Allora, noi siamo tutti disponibili a salvare le banche quando fanno cavolate, i banchieri, i dirigenti, strapagati, visto che parliamo del Monte dei Paschi, ci sono i processi in corso, e Mussari era presidente dell'ABI, e nessuno ha mai niente da dire su questo, perché cane non mangia cane. Allora, non mi dite che le banche sono private. Io, meno male che non ero in diretta, ero in vacanza negli ultimi due giorni, quando è stata la relazione dell'ABI, perché qualche cosa l'avrei voluta dire anche di più. Ma per favore, allora, sembra sempre che non abbiano mai colpa di nulla, di niente, che stanno facendo il possibile. Ci siamo ritrovati a tirare fuori 4 miliardi per una gestione non dovuta a errori di calcolo, ma perché, secondo le accuse dei PM, rubavano i dirigenti delle banche, rubava l'amministratore delegato, la Cassa di Risparmio di Genova nella stessa condizione. Andiamo nelle Marche a vedere che è successo. Allora, lì interviene il pubblico, intervengono i cittadini. Bene, è inutile che le banche continuino a raccontare che sono soggetti privati in senso stretto. Non lo sono. Oh. Vabbè, parliamo delle famiglie povere italiane. Sono il 6,4% delle famiglie a rischio, quasi povere. Lo ricordavamo prima, ci sono invece un numero di famiglie, i poveri assoluti sono 1 su 10. L'Istat divide tra 10 milioni di poveri relativi e 6 milioni di questi 10 che sono poveri assoluti. I dati li ha commentati Linda Laura Sabadini, che è direttore del Dipartimento per le Statistiche Sociali e Ambientali dell'Istat, intervistata dalla nostra Livia Zancanero. Il peggioramento di quest'anno è soprattutto dovuto al Mezzogiorno. Il Mezzogiorno è la zona del paese dove la povertà assoluta sta crescendo di più, e d'altra parte anche la zona del paese che è stata enormemente più colpita dalla crisi fin dall'inizio. A questo va aggiunto che la situazione è molto critica per i minori, siamo a 1.434.000 minori che sono poveri assoluti, e quindi c'è stata una crescita di quasi 400.000 minori soltanto nell'ultimo anno. In più va sottolineato che cresce la povertà assoluta tra le famiglie operaie, tra le famiglie con a capo un disoccupato, tra le coppie con figli, soprattutto se due o tre o più figli, arriviamo a superare ampiamente il 20%. E quello che va sottolineato è che i poveri assoluti crescono anche tra gli anziani, seppure le famiglie di anziani hanno una percentuale che è più bassa della media. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia per quello che riguarda, chi vuole scriverci su Facebook. Sto leggendo moltissimi messaggi oggi, non voglio però parlare di banche, già mi sono sufficientemente scaldato. Voglio invece parlare della classifica del Sole 24 Ore sulle province che hanno subito, indipendentemente da quale livello partissero, i maggiori danni da questa crisi. Gli indicatori utilizzati: casa, inteso come prezzi, automobili come immatricolazioni, beni durevoli, farmaci, rifiuti, e poi il numero di laureati, il tasso di disoccupazione, i prestiti personali, i depositi in banca e il reddito pro capite. Classifica che ha delle conferme. Uno potrebbe pensare, beh, la crisi ha colpito di più al sud. Non necessariamente, anche, ma non necessariamente, perché delle volte, è brutto dirlo, si partiva già da livelli bassi, anche se nel caso per esempio di Nuoro, pur partendo da livelli bassi, è una delle città più massacrate da questa crisi, così come Viterbo e anche Cagliari o Messina, ma vi sono sorprese anche al contrario, come racconta questa scheda. Settennato particolarmente difficile per i centri medi e piccoli del nostro paese e divari ancora più accentuati tra nord e sud. Ad accusare il colpo anche oasi considerate felici come Piemonte, Emilia-Romagna, Marche e Lazio. Più in particolare, le prime 10 province dove la crisi ha colpito di più sono Viterbo, Latina, Novara, Cosenza, Nuoro, Cagliari, Terni, Messina, Grosseto, Reggio Calabria. Le 10 che invece hanno resistito meglio sono Vicenza, Bolzano, Modena, Mantova, Pisa, Genova, Prato, Verona, Aosta e Milano. Se il PIL medio pro capite è calato di quasi il 2%, in alcune realtà è arretrato ancora di più, come Arieti, Ascoli Piceno e Latina, mentre in altre ha tenuto. Milano segna persino un progresso. Salta all'occhio poi come sia diminuito il ricorso all'indebitamento. I timori di non poter onorare i propri impegni hanno tagliato del 7% l'importo medio dei prestiti personali. Preoccupate, le famiglie hanno preferito parcheggiare i risparmi in banca. I depositi pro capite sono cresciuti del 70%, percentuale che si è fermata però sotto il 30% in province come Forlì o Lodi. Ma è il tasso di disoccupazione la spia che lampeggia con maggiore intensità. Dal 2007 al 2013 l'indice è raddoppiato al 12,2%, colpendo aree che in passato segnavano indici inferiori alla media nazionale, come l'Emilia-Romagna. Il rallentamento generale non ha salvato il Mezzogiorno dalle posizioni più drammatiche. A Napoli, Crotone ed Enna il tasso dei senza lavoro è sul 25%. Segno meno anche su un altro fronte, quello dei prezzi delle case, con gli aspiranti compratori che se ne avvantaggiano, ma con i proprietari che vedono assottigliarsi il valore dell'investimento. Meno acquisti anche di beni durevoli. La spesa è calata in media del 18%, con picchi a Belluno, Rovigo, Venezia. Dimezzate le immatricolazioni e in forte ridimensionamento lo scontrino in farmacia. L'ambiente, infine, può tirare un sospiro di sollievo. La spending review familiare e i minori consumi hanno alleggerito il sacco dei rifiuti. Questa in sintesi la classifica. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, vedo molti messaggi che dicono attenzione, la vita costa meno al sud, siamo d'accordo, ripeto, è un'analisi dinamica. Allora facciamo una cosa, visto che bisogna analizzare bene, anche perché le province italiane, invito oggi a guardare solo 24 ore, essendo 103, si notano variazioni anche abbastanza impressionanti, ripeto, su quelle che guardando il punto di partenza sono più peggiorate o in realtà meno peggiorate, per cui se tra le prime 20 troviamo anche Novara, Grosseto, Cuneo, Udine, Rimini, Alessandria, Brescia, cioè Brescia ha avuto un peggioramento della sua situazione, anche Bergamo al 20° posto, Bergamo al 19°, Piacenza al 22°, cioè chi è in alto a questa classifica è quello che ha avuto un maggiore peggioramento, si intende. Dicevo, Brescia, Bergamo e Piacenza hanno avuto un peggioramento della situazione economica complessiva anche superiore a Crotone, che è al 25° posto, o per esempio a Massa Carrara, o a Salerno, che sono al 32°, Massa al 29°. Ovvio, lo dico a tutti, questo non vuol dire che, diciamo, il clima economico e socio-economico di Crotone sia migliore di quello di Bergamo e Brescia, dove c'è una ricchezza molto più alta, diffusa, e anche servizi più alti. È solo che il peggioramento avuto in queste 10 variabili da Brescia, Bergamo, Alessandria e Piacenza è stato un peggioramento superiore a quello di Crotone. Facciamo una cosa, facciamo prima la borsa e poi andiamo a spiegare bene questa classifica. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Dunque, la borsa intanto oggi si risolve, devo dire, in maniera abbastanza rapida: più 0,40% Milano, più 1,20% Francoforte, più 0,80% Parigi, più 0,90% Londra. E la Pop Emilia Romagna è il miglior titolo tra quelle maggiore capitalizzazione, più 3,20%, Unicredit più 2,30% come G-Tech, Pop Milano più 2,20%, Intesa San Paolo più 1,80%. Invece, fronte opposto per il Banco Popolare, meno 3,60%, il Monte dei Paschi meno 2,70%. Quindi oggi le banche non si muovono all'unisono, anzi in maniera decisamente divergente. Come sempre l'aggiornamento con Radio Cori, Sole 24 Ore. Andrea Fontana, buonasera. Buonasera Sebastiano. Come mai due andamenti così diversi tra gruppi bancari? Ci sono anche motivazioni singole che hanno mosso, soprattutto i migliori titoli del FTSE MIB. Tu hai già citato Popolare dell'Emilia Romagna, è emerso un segnale di fiducia nell'ultima settimana di aumento di capitale dall'amministratore delegato Vandelli nel corso di un'intervista, che ha detto anche il gruppo dopo l'aumento sarà pronto a recitare un ruolo di protagonista nel consolidamento del settore bancario. Dall'altro canto, per Unicredit più 2,3% oggi, si aspettano novità sulla vendita di alcuni asset, in particolare degli asset riguardanti i crediti non performanti, per i quali oggi dovevano arrivare delle offerte. Quindi anche storie singole, Banco Popolare e MPS confermano una fase di debolezza. MPS, dopo l'aumento di capitale, forse ce lo si aspettava anche, ha perso oggi il 2,7%, Banco Popolare sta vivendo in borsa un periodo di correzione piuttosto marcato. E questo lo dice, vedo che ancora molti mi scrivono sulle banche, allora per favore, adesso non posso fare la puntata su questo, che le banche abbiano Basilea 2, Basilea 3, Basilea 4, la vendetta, lo sappiamo tutti, abbiamo più volte detto che erano degli strumenti strastupidi quelli di Basilea, che andavano a irrigidire le condizioni del credito in un momento di difficoltà di tutta l'area euro, ma questo è un tipico atto di masochismo su cui l'area euro o l'Europa è maestra. Detto ciò, abbiamo anche detto che il Monte dei Paschi i soldi li sta quasi tutti restituendo, ho solo detto che però li ha avuti nel momento in cui una banca è in difficoltà e per danni creati dai suoi manager. Dopodiché, se insistiamo su questo tema, mi tocca riprendere la notizia della settimana scorsa su come sono stati i bonus, gli stipendi, compresi i bonus dei manager, top manager bancari. La fonte erano tutte fonti bancarie, che praticamente sono rimasti sostanzialmente quasi invariati. E il rapporto tra il top manager e il dipendente di banca, visto che le banche hanno avuto migliaia di esuberi in questo periodo. Okay? Nessuno vuole, e chiudo, che le banche prestino soldi a imprenditori o artigiani che sono a rischio, perché i soldi delle banche sono i soldi dei nostri, sono i nostri soldi, e dovrebbero ricordarselo anche quando fanno certi investimenti e quando li prestano a certi imprenditori grandi, di grossi nomi, che vanno, alcuni erano preti, altri diciamo sono famosi imprenditori. Devo parlare di Sorgenia, devo parlare di Don Verzè, devo parlare di Fondiaria Sai, su come le banche prestano i soldi. Ah, tra l'altro ho visto che hanno rinviato a giudizio anche l'ex presidente dell'ISVAP Giannini, quello che mi doveva querelare, a suo tempo mi minacciava di querela. Penso che adesso insomma userà gli avvocati per altre cose. Andiamo avanti, Andrea Fontana, al di là delle banche, giornata positiva per G-Tech. Sì, per G-Tech pesa in positivo l'indiscrezione di un interesse nell'acquisizione di un gruppo americano, sempre del settore giochi e slot machine nello specifico, International Game Technology, che sarebbe nel mirino del gruppo ex Lottomatica, un'operazione che evidentemente piace al mercato, e per questo il titolo ha guadagnato il 2,3%, è stato positivo durante tutto il corso della giornata. Ancora per quello che riguarda i titoli, Fiat più 1,50%, Moncler più 1,40%, ST Microelectronics più 1% come Boots, Unicem ed Eni. Negativo oggi invece sia Snam che Saipem. Beh, per quanto riguarda Snam, pesa la notizia uscita nel weekend del commissariamento della controllata Italgas nell'ambito di un'indagine del Tribunale di Palermo, e chiaramente una notizia che è stata presa con forte sorpresa anche da parte degli analisti, che secondo i quali diciamo non dovrebbe esserci un impatto particolarmente significativo sui conti, ma più che altro reputazionale e anche forse sulla partecipazione alle prossime gare della distribuzione del gas, per questo è stato penalizzato il titolo. Per quanto riguarda Saipem invece pesano quella che è l'incertezza sulla strategia che Eni, primo azionista di riferimento di Saipem, adotterà, visto che da tempo si parla di un ridimensionamento dell'impegno di Eni in Saipem. Oggi i giornali parlavano di diverse ipotesi, un aumento di capitale per diluirsi oppure la vendita in blocco della quota, e chiaramente il titolo non è risente come si aspettavano gli operatori e ha perso il 2,2%. Mi fanno notare che non ho dato, avete ragione, nell'America più 0,80% il Dow Jones, mentre per quello che riguarda i migliori e peggiori, Roma Calcio più 9, Mondo TV France più 8,20, TAS più 7,80 e anche AXA più 3,90. Il peggior titolo invece SEAT pagine gialle meno 6,20, ciò che ne resta, diciamo. Industria e innovazione meno 5,70, Screen Service meno 5,26%. Grazie Andrea Fontana, Radio Colli, Sole 24 Ore. Ancora con queste banche. Quando le banche hanno atteggiamenti, abbiamo avuto ospite l'amministratore delegato di Unicredit, Ghizzoni, e quando vediamo atteggiamenti che vanno verso una maggior concessione di credito con una sana e prudente gestione, ma vera, noi siamo i primi a applaudire. No, non mi dite che le banche sono solo private, questo su cui mi sono inalberato, perché quando hanno problemi diventano pubbliche. E 9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. No, leggo un messaggio. Allora, la Germania ha vinto ieri senza rigore, quindi si può vincere senza rigore. Vabbè, non male, non male, visto l'insistenza dei tedeschi sul rigore, in questo caso economico. Poi c'è chi dice: lei semplifica troppo, le banche sono piene di sofferenze e devono fare un buon credito. Nessuno ha mai detto una cosa opposta, anche perché gestendo i risparmi degli italiani la sana e prudente gestione è fondamentale. Ho solo detto che non si può sempre dire che va tutto bene, che il credito è ai massimi, quando poi la notizia di oggi era il Fondo Monetario, ma vale la stessa cosa se guardiamo la Banca Centrale Europea. Il Fondo Monetario cita esplicitamente la restrizione di credito avvenuta per le piccole e medie imprese in Spagna e Italia. Allora sono tutti che non capiscono niente e va bene, diciamo così. E poi, ripeto, la mia arrabbiatura era su chi dice: ma le banche sono private, fanno quello che vogliono. Mica tanto, perché quando hanno problemi poi diventano pubbliche come importanza. Allora, andiamo invece a un'industria pubblica, ma che opera in un settore ad alta concorrenza privata, mi riferisco a Finmeccanica. Oggi debutto al salone più importante che c'è al mondo per quello che riguarda l'industria dell'aerospazio e difesa, quindi aviazione civile e aviazione militare, potremmo dire, anche se poi c'è tutta la componentistica, c'è tutto l'indotto, e si chiama Farnborough, si tiene un anno a Londra, appunto Farnborough, l'anno dopo a Le Bourget in provincia di Parigi. C'è l'inviato di Radio Corriere sulle 24 ore, Massimiliano Zampini. Buonasera Massimiliano. Buonasera Sebastiano. Sì, debutto del salone qui internazionale di Farnborough e debutto soprattutto per Mauro Moretti, da 2 mesi alla guida di Finmeccanica, che ha fatto il suo vero e proprio debutto internazionale in questo contesto. Insomma, ed è stato un debutto con il piglio deciso abituale di Moretti. Insomma, Moretti che ha detto di aver ricevuto dal Premier Renzi un mandato a rivitalizzare Finmeccanica, un'azienda che lui giudica essere messa in questi ultimi tempi un po' sottotono, soprattutto economicamente, e lui dice che questa missione è possibile, una missione che passa attraverso una riorganizzazione molto forte del gruppo, un gruppo che secondo Moretti fa troppe cose e ha troppi pochi soldi da investire in questo momento e che quindi deve focalizzare meglio i suoi investimenti, e un gruppo che deve forse anche rivedere il portafoglio di attività in suo possesso. Non a caso Moretti ha citato uno dei problemi più annosi della Finmeccanica, cioè Ansaldo Breda, la società ferroviaria da tanti anni in perdita, E su questo punto Moretti ha detto che entro la fine di questo mese si aspetta delle offerte vincolanti da parte di potenziali acquirenti, per poi prendere una decisione entro ottobre su che cosa fare, se vendere o meno appunto la società ferroviaria. Poi Moretti ha parlato anche di un buon momento comunque, il titolo ultimamente, la borsa sta dando credito a questo nuovo corso di Moretti, Finmeccanica ha recuperato diverse posizioni nelle ultime settimane e anche da un punto di vista commerciale Moretti, dopo un periodo di forte appannamento per Finmeccanica, vede tornare l'interesse sull'azienda. E di questo ti ha parlato lo stesso Mauro Moretti, anche perché appunto sono stato Breda, tu ricordavi la decisione arriverà ad ottobre. Ha toccato anche il tema degli F-35, dobbiamo anche nel campo degli F-35 lavorare per far sì di sviluppare la possibilità della nostra industria, non solo le parti di struttura ma anche quelle più pregiate. Però vorrei ascoltare il Moretti, diciamo, che si confronta, come ha detto ai tuoi microfoni, con le altre grandi aziende concorrenti a livello mondiale. Noi ci confrontiamo con le altre grandi aziende al mondo in un settore ad altissima innovazione tecnologica e siamo tra i pochi paesi al mondo che si cimenta in questo, quindi l'essere qui è già un motivo d'orgoglio per l'industria nazionale. Stiamo naturalmente avendo successo per le nuove produzioni che stiamo mettendo sul mercato. Da un lato la parte elicotteristica, che probabilmente è la più avanzata oggi al mondo, dall'altro la parte aerea con gli addestratori, in particolare il nuovo 346 rappresenta un piccolo gioiello per addestrare piloti in tutto il mondo con sistemi integrati terra-aereo, e dall'altro con quelle che sono le componentistiche, avioniche, radaristiche e così via, che Selex ha fatto e i servizi che Telespazio ha mostrato. Quindi ci comportiamo in una situazione di competizione come un competitor che ha tante cose da dire e abbiamo infatti un grande successo. Il futuro di Finmeccanica passa per tre parole: sviluppo tecnologico, razionalizzazione e focalizzazione del business strategico nell'aerospazio difesa e terzo, razionalizzazione della parte dei prodotti. Oggi abbiamo troppe cose da fare, non si possono sviluppare tutte quante assieme perché la competizione è elevatissima, né ci sono sufficienti risorse per fare investimenti in tutti i settori. E questo vuol dire che Finmeccanica deve scegliere cosa fare. Quelli che vedete qua normalmente fanno un terzo dei prodotti che fa Finmeccanica e fanno fatica a svilupparli. Immaginate noi come dovremmo fare a fare tutto il resto. Abbiamo poi da affrontare il problema anche in maniera molto molto rapida. Adesso non in agosto faremo le cose, ma la visualizzazione verrà fatta entro il 2015, il piano industriale nuovo entro la fine di questo anno, e dovremo farlo con una consapevolezza. Non abbiamo molte risorse, anche perché la situazione economica e finanziaria del gruppo è un po' difficile, non abbiamo molte risorse, quelle che abbiamo le dobbiamo concentrare sulle cose che sono a più alto valore tecnologico da sviluppare e a maggiore redditività economica e finanziaria. Così appunto il neo numero uno di Finmeccanica, Mauro Moretti, ai tuoi microfoni. Va anche detto, poi Massimiliano Zampini resterà a Londra, poi rientra a un certo momento, però che oggi l'Airbus ha annunciato il nuovo A330-800 Neo, appunto, e l'A330-900 sono due nuovi membri della famiglia Airbus con i motori di ultima generazione Rolls Royce, avranno la capacità di ridurre i consumi di carburante del 14% per passeggero e saranno quindi quelli più redditizi dal punto di vista del medio raggio sul mercato, e poi un aumento dell'autonomia fino a 400 miglia nautiche. Le consegne inizieranno nel quarto trimestre del 2017. Intanto si va avanti con le trattative tra sindacati e azienda per quello che riguarda l'Italia. Io ringrazio Massimiliano Zampini in collegamento con Eda Farnborough. Adesso c'è il traffico e poi finalmente l'approfondimento sulla classifica che già anticipavamo nella prima ora del Sole 24 Ore su quali province italiane sono state più colpite rispetto al punto da cui partivano, da questa crisi. Allora, già dicevamo nella prima ora del programma della classifica, ripeto per la terza volta, che non va a vedere dove si sta meglio o peggio da un punto di vista economico-sociale, ma dove la crisi ha colpito di più. È chiaro che in alcune province si partiva da livelli già alti e in altre da livelli già bassi, ma devo dire che le sorprese ci sono, pur vedendo appunto che nella parte dove la crisi ha colpito di più ci sono anche molte province del Sud Italia. Saluto e ringrazio una delle curatrici della ricerca pubblicata oggi da Sole 24 Ore, Rossella Cadeo, buonasera. Buonasera. Dunque, come dicevo, da un lato ci sono conferme, nel senso che le prime 10 province su 103 province dove la crisi ha colpito di più sono molto spesso nel centro-sud del paese, appunto Viterbo, Cosenza, Latina, Nuoro, Cagliari, Terni, Messina e Reggio Calabria. Vale la pena però ricordare che ci sono anche province tra virgolette insospettabili: Novara al terzo posto tra quelle dove la crisi ha colpito di più, Grosseto al nono, Cuneo all'undicesimo, Udine al tredicesimo, Rimini al quindicesimo, Alessandria al diciassettesimo, Brescia al ventiduesimo e Vercelli al ventitreesimo, che sono messe anche peggio di Crotone, per dare un esempio. Quindi Rossella, è chiaro che c'è una fotografia di un sud dove la crisi ha colpito di più, ma con più di un'eccezione. C'è un filo comune denominatore, visti i 10 criteri che avete utilizzato? Sì, bisogna innanzitutto osservare che questa è una fotografia dinamica, nel senso che siamo andati a vedere come hanno resistito alla crisi le varie aree territoriali, quindi è una sorta di indice di resistenza dove abbiamo appunto le sorprese che dicevi tu, dove abbiamo sì un divario nord-sud che c'è sempre, che resta nel tempo, che in qualche caso si accentua, ma dove abbiamo anche qualche sorpresa, proprio perché la crisi ha fatto sentire la sua pressione dovunque. Noi abbiamo per esempio, vedo qui nel tasso di disoccupazione, abbiamo l'Emilia Romagna con sì. Ferrara, Piacenza, Ravenna, Bologna che peggiorano visibilmente il loro tasso di disoccupazione. Addirittura Ferrara più 420% rispetto al 2007 la disoccupazione, Piacenza più 260%, Bologna più 240%. E allo stesso modo, tra l'altro, le performance migliori, ma qui bisogna stare attenti alla statistica, sulla disoccupazione sono a Nuoro, meno 3,8%. Uno potrebbe però dire, siccome era già bassa l'occupazione, era già alta la disoccupazione, non è peggiorata quanto in aree dove la disoccupazione era molto bassa. Esatto, infatti anche Ferrara in fin dei conti passa sì dal 2,7% al 14,2%, che è un dato superiore alla media nazionale, però abbiamo anche Bologna che peggiora, però si mantiene sempre sotto alla media nazionale. Quindi dove la situazione era diciamo non allarmante, si cominciano a sentire gli effetti della crisi. Devo dire che comunque, visto che parliamo di disoccupazione, Ferrara tocca il 14,2%, Nuoro che è al 10% come disoccupazione ufficiale. Esatto. Faccio notare che Ravenna è al 9,9%, vicinissima a Nuoro, attaccata a Nuoro, e partivano dal Ravenna e Ferrara partivano dal 2,9% di disoccupazione, quindi disoccupazione inesistente sotto il tasso fisiologico. E l'altra cosa che mi viene in mente è sul fronte opposto, tra chi ha sentito meno la crisi, sulla base appunto dei 10 indicatori che ricordavo prima, troviamo appunto Vicenza, Bolzano, Modena, ma anche Avellino, Isernia e Vibo Valentia, ecco, che sono messe meglio di Bologna, di Firenze, di Pordenone. Sì, bisogna vedere da che dato partivano. Certo, no, ma è chiaro che è dinamico. Anche Milano ad esempio ha sentito meno la crisi, sì, però questo è un dato che la accomuna tutte le grandi realtà del territorio, no? Nel senso che nelle città di più grosse dimensioni c'era una forma di una sorta di stabilità, di solidità, che ha permesso di contenere gli effetti negativi di questi 7 anni. Ecco, lo dico anche chi sta scrivendo a 3492386666. Non è la classifica delle città dove si vive meglio, diciamo, dove la situazione economica è migliore, quella già la fa le province Sole 24 Ore. Questa è la classifica dinamica di chi è peggiorato di più in questi anni. È ovvio che quando tu eri già messo male, probabilmente, ma non sempre, ma probabilmente il peggioramento è stato meno sensibile, anche se, ripeto, non sempre, perché una città come Nuoro era già messa male, o Cosenza, prima della crisi, ed è comunque quella dove si è abbattuto di più l'effetto della crisi. Per cui non è detto che se tu eri, diciamo, una città con difficoltà, una provincia con difficoltà economiche, la crisi si è fatta sentire meno, e invece si è fatta sentire solo laddove invece la situazione era rosea prima della crisi. C'è un elemento magari che riguarda la crisi aziendale di un gruppo molto importante nel territorio che fa sballare, tra virgolette, un po' questa classifica? Questo bisogna andare a vedere classifica per classifica, bisognerebbe, questa è la fase successiva delle inchieste che facciamo noi qui a Sole del Lunedì, nel senso che questa è una base di dati, da qui poi possono partire tutte le inchieste per andare a capire come mai il dato statistico è uscito in questo modo, piuttosto che... Cioè, come mai Novara è la terza come provincia dove peggio si è abbattuta la crisi, per esempio, no? E Novara bisognerebbe andare a vedere queste classifiche, questi 1000 dati che certo. abbiamo qua, per capire dove è peggiorata, dove è peggiorata di più. Io adesso qui bisogna vedere in quale di queste classifiche rientra tra le 10 peggiori, e per un gioco di appunto di punteggio l'ha fatta Novara, finisce al terzo posto come città peggiore. Ecco, Rossella, un'altra cosa che si nota è che appunto dei 10 indicatori ce ne sono alcuni enormemente diversi. Prima citavamo la disoccupazione, si va da province che hanno avuto il più 260 o il più 400 o il più 200% di disoccupazione in aumento, a province in cui la disoccupazione in questi anni è aumentata solo del 10-20%. E lo stesso ragionamento vale anche per altri indicatori che voi avete ottenuto, per esempio sul numero di automobili si va da chi le ha tagliate dell'80% le immatricolazioni, 70% a Aosta, Nuoro, Isernia, Sassari, Enna, a chi ha avuto tagli molto molto contenuti, intorno al 10%, e questo vale appunto anche sul fronte del mattone. Andiamo da zone in cui la casa è crollata come prezzo del 30% o del 25% a zone in cui ha avuto un calo del 7%. Qual è il dato invece dove le variazioni sono minori e quello, diciamo, che ti ha più sorpreso? Ma le variazioni minori sono forse nella spesa per i farmaci. Questo è un calcolo che è stato fatto sulla spesa effettuata in farmacia per medicinali, cosmetici e altro. Devo dire che in questo caso le variazioni non sono enormi. Poi c'è un dato abbastanza curioso che direi è quello che è riferito ai rifiuti, gli scarti. In questo caso noi di solito vediamo positivamente la riduzione dei rifiuti, la riduzione dei chili di raccolta pro capite, perché questo vuol dire una minore pressione ambientale, una migliore impronta ambientale, quindi un vantaggio per l'ambiente, per l'aria, per tutto quanto. E in realtà qui l'abbiamo voluta interpretare come un dato più riferito ai consumi, nel senso dove si scarta meno. Dove i rifiuti sono scesi vuol dire che probabilmente si è comprato, si è consumato di meno. Qui in questa classifica è abbastanza sorprendente comunque il dato di Olbia che parla di 1000 kg di rifiuti pro capite all'anno, a fronte di una media italiana di circa 570. Sì, lì non vorrei che entrassero anche entra in gioco anche la popolazione e l'attività principale di un territorio, no? Certo. Nel senso che a Olbia probabilmente è una provincia prettamente turistica, quindi c'è anche la popolazione turistica che va a incidere su questo dato. Quindi sono tutti dati che ammetterebbero un approfondimento nel dettaglio, uno per uno, ma anche localmente, per andare a vedere proprio che cosa è successo. Grazie, e vi sarà, immagino, anche un approfondimento su questo. Grazie a Rossella Cadeo. Vedo molti messaggi che dicono: beh, il fatto che si usino meno medicinali, si comprino meno medicinali, si facciano meno rifiuti, è anche un buon segno. Sì.